24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:21 minuti, eccoci qua per concludere la settimana in diretta fino alle 9 con 24 mattino, cari ascoltatori. Oggi parliamo di Gianna Nannini. Beh sì, insomma, l'avete vista, incinta, quasi mamma, ormai mamma a 50 anni, anzi 54 anni. E il dibattito è aperto da tempo, da quando si è saputa della sua gravidanza, quest'agosto. È un atto di amore o un atto di egoismo? Mamme sopra i 50 anni. Questo vi chiediamo oggi nel nostro sondaggio. Votate su radio24.it, bianco o nero, nella home page. Ne parleremo poi alle 8:30 e che dire. Iniziamo come di consueto con la lettura dei giornali. In primo piano. Venerdì 19 novembre, oggi le aperture sono diversificate, apre sul fisco Zavorra, sulle imprese, il Sole 24 Ore, uno studio della Banca Mondiale, del Centro Einaudi, uno studio incredibile per l'Italia. Siamo al 167esimo al posto nel mondo su 183 paesi per il peso fiscale sulle imprese. Avete sentito bene, su 183 paesi l'Italia è al 167esimo posto come peso fiscale sulle imprese. Cari imprenditori, se ci state ascoltando, iniziamo la giornata così, con una bella notizia, si fa per dire. E allora, poi c'è la politica, ci sono altre scelte. Repubblica intervista il presidente americano Barack Obama con Federico Rampini. Obama, un patto con l'Europa. Per il Corriere, la politica italiana, la frenata di Fini sulla crisi. Per il giornale, Silvio fa un altro partito. Questa è una novità, insomma, in arrivo forse. Ma comunque vedremo le varie aperture. Io voglio andare alle segnalazioni iniziali. La prima la troviamo su Corriere e Stampa, una mezza pagina. Il 5 per 1000 ridotto a un quarto, l'allarme delle associazioni. Rita Querzè del Corriere della Sera parla dell'allarme del terzo settore, perché è previsto un taglio in finanziaria dai 400 milioni destinati al terzo settore abitualmente a 100 milioni. Siamo sconcertati. Questo taglio al 5 per 1000 del 75% è un colpo basso. Come organizzazione del volontariato ci eravamo abituati a pensare che non svolgiamo una funzione caritativa, ma siamo parte integrante significativa del welfare nazionale, secondo il principio di sussidiarietà. Solo parole. Firmato Giorgio Toisi, che è il segretario generale della VIDAS, una delle associazioni che in questo caso si occupa di assistenza ai malati terminali, una delle associazioni del terzo settore. La denuncia anche sulla Stampa: le onlus in rivolta ci derubano del 5 per 1000, perché la Camera ha votato nella finanziaria da approvare, dunque non è ancora definitiva, ma insomma il tempo stringe. La Camera ha votato il taglio del 75% deciso dal governo della destinazione del 5 per 1000, cioè non più 400 milioni da distribuire in base alle crocette degli italiani, alla destinazione del 5 per 1000 per il terzo settore, ma 100 milioni. E dire anche Andrea Olivero, attacca, presidente del Forum Terzo Settore, dire che è un tradimento vero e proprio, proprio fu Tremonti a introdurre il 5 per 1000. Ma certo, la linea invece di chi dice si taglia per tutti, si deve tagliare anche per il terzo settore. Certo, però queste sono associazioni che si occupano, insomma, di fare anche qualcosa che magari dovrebbe non rientrare nella scure dei tagli così, senza pietà. Questo almeno è l'allarme che lanciano le associazioni. La seconda segnalazione che vi voglio dare è quella che trova spazio in prima pagina del Secolo XIX, perché riguarda Gino Paoli, cantautore dunque che a Genova e da quelle parti è molto, molto in vista. E che ti ha fatto ieri andando da sempre quei satanassi di Un giorno da pecora su Radio 2, vale a dire Claudio Sabelli Fioretti e Giorgio Lauro. Ha parlato di Mina e non ne ha parlato benissimo. Mina canta meglio Carla Bruni. Io quando ho letto questo titolo l'ho dovuto leggere 4-5 volte, non avendo ascoltato ieri la trasmissione. Gino Paoli, Mina canta meglio Carla, in prima pagina del Secolo XIX. Cioè l'interpretazione del cielo in una stanza. La Bruni è l'unica ad averla cantata senza farla sembrare una cosa diversa. E Mina... meglio Carla Bruni. Mina canta al cielo in una stanza e l'elenco del telefono allo stesso modo. Ora racconta il Secolo XIX Che Gino Paoli sia un artista controverso, bastian contrario di prima scelta, lo sappiamo, racconta Renato Tortarolo nel suo articolo. Ma dire che Carla Bruni canta meglio di Mina, beh, insomma, forse questa ce la potrebbe risparmiare, ce la poteva risparmiare. E invece Gino Paoli di Mina dice così: intonerebbe come esecuzione, come interpretazione, il cielo in una stanza allo stesso modo dell'elenco del telefono. Molto meglio l'interpretazione di Carla Bruni. Così è, se vi pare. Ci fermiamo e riprendiamo dopo pubblicità e meteo. In primo piano. La politica oggi si interroga su quella che viene definita dal Corriere della Sera in apertura la frenata di Fini sulla crisi. Fini ha mandato questo video nel quale la frase clou è questa: faccio un appello alla massima responsabilità in primis a chi ha avuto l'onore e l'onere di governare e deve onorare quell'impegno attraverso un'agenda di governo. Vedremo nei prossimi giorni quel che accadrà. Che vuol dire? Allora, ci sono le interpretazioni come quelle di Libero, Fini si ribalta, cambia il vento, un punto per Berlusconi. C'è chi dice Fini ha paura, i finiani dicono non ha nessuna paura. C'è l'interpretazione della Stampa. A Mediola Mattina, pagina 7, all'ombra di questa, dietro insomma questa decisione di Fini, ci sarebbe un'irritazione del capo dello Stato. Il capo dello Stato si sarebbe irritato, Napolitano, nei confronti della terza carica dello Stato, dunque di Fini, perché Napolitano non vuole incidenti di percorso durante l'approvazione della finanziaria. Un'irritazione ovviamente che i berlusconiani confermano, i finiani smentiscono. C'è Iena, graffiantissimo oggi sulla Stampa: Fini, retromarcia e libertà. E poi c'è Berlusconi che dice, secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, pagina 11, nel retroscena politico Gianfranco si è dovuto arrendere, Silvio inizia a cantare vittoria, mentre invece Francesco Verderami sul Corriere della Sera dice no, attenzione, interpretiamola bene questo rallentamento della crisi da parte di Gianfranco Fini. Tanto basta vedere il colloquio breve che Gianfranco Fini ha avuto con Gianni Letta, un breve e caustico colloquio qualche giorno fa al termine di un convegno. I due si sono trovati a parlare di cinema e Gianni Letta ha detto mi piacerebbe andarci ma non ho tempo, e al che Fini ha risposto nel prossimo futuro ne avrai di tempo a disposizione. Cioè, come dire, vogliamo mandare via Berlusconi, questo è il punto. E Letta di che ha replicato Letta a Fini: ah, un futuro di libertà, immagino. Ecco, in questo caustico colloquio che secondo Francesco Verderami è avvenuto tra il presidente della Camera e Gianni Letta, c'è in realtà il senso che Fini non ha cambiato nulla, cioè vuole proprio la testa di Berlusconi politicamente parlando. Sta di fatto che, ecco, ci si interroga su questo, su il significato di questo messaggio di Fini. Come ci si interroga? Vabbè, lo sappiamo, da qui al 14 dicembre, io ve l'ho detto, mettetevi comodi, per la politica ne sentiremo di tutti i colori. E dunque anche su questa caccia ai deputati, secondo il Fatto Quotidiano, addirittura in prima pagina, la lotteria per comprare, questa è la parola che viene utilizzata, il voto dei deputati che contano è arrivata fino a 2 milioni di euro. L'asta per l'acquisto di un deputato è schizzata fino a 2 milioni di euro. La Stampa parlava qualche giorno fa di offerte da 500.000 euro per votare pro o contro la fiducia. Ora, ieri, quello che io avevo adombrato come una boutade dei radicali di Pannella, che ha detto siamo pronti a interloquire con chi vuole, abbiamo 6 voti, caccia PDL ai deputati, offerta ai 6 radicali. Sentite qua, pagina 6 del Corriere della Sera: recuperato un altro ex. Ecco, tra l'altro, da registrare, tenete conto di questo bilancino di parlamentari fondamentali per la Repubblica Italiana. Grassano che è entrato e doveva entrare come leghista, poi la Lega l'ha cacciato fuori perché aveva un'indagine in corso, e allora lui è entrato nel gruppo misto, adesso è passato con credo il Popolo della Libertà, cioè con Berlusconi, tanto che anche il suo responsabile, tale Tanoni dei Liberal Democratici, ha detto Grassano è passato di là. Ma come? Mezz'ora fa mi ha chiamato per chiedermi di organizzare una riunione del partito in Piemonte. Che dire? Non lo so. Cioè, neanche chi è del suo stesso gruppo, che poi sono Italo Tanoni e Daniela Melchiorre, cioè sono in tre, neppure lui sa, ma come, mezz'ora fa l'ho sentito, stava con me, adesso pare che è andato col Popolo della Libertà, anzi con Pionati della ADC, Alleanza di Centro, che però è, diciamo, votano voteranno la fiducia a Berlusconi. Dunque Grassano è passato all'ADC, mentre Antonello Caporale su Repubblica intervista Giampiero Catone, che è passato ai Finiani ma pare abbia dei dubbi. Tanto che dice: mezz'ora Berlusconi mi ha tenuto al telefono, un'altra mezz'ora a tu per chiedermi di non mollarlo. Ho detto di no per un progetto politico, mica per me, per la poltrona di deputato. Io sono commercialista, professore universitario, mi chiamano da Nomisma, perdo facendo il deputato, perdo 50.000 euro al mese, perché farei molti più soldi senza essere qui alla Camera. E come dicevo, dei radicali, Marco Pannella, l'imprevedibile, definito così, viene intervistato dal Quotidiano Nazionale. Noi radicali votiamo la fiducia se... Avete capito? Votiamo la fiducia se... Cioè ad Andrea Cangini dice: se il dialogo prenderà corpo su basi serie, votereste la fiducia di governo? Sì, certo. Ma tutto sta in quel tuo se. Cioè se il dialogo prenderà corpo. Per dialogare bisogna essere in due. Perché il dialogo abbia uno scopo, corre serietà da entrambe le parti. Insomma, noi siamo d'altronde l'unica vera alternativa al regime, sia di destra che di sinistra. Noi siamo non violenti e quindi non abbiamo paura a confrontarci col potere. Eccolo qua, Marco Pannella che offre la possibilità di un dialogo, e sono 6 i voti dei radicali alla Camera, dunque 6 sono pesanti di questi tempi. E staremo a vedere, ripeto, da qui al 14 ne sentiremo delle belle. Berlusconi invece, secondo il giornale, a titolo di prima pagina, prepara un nuovo partito. Ormai era una voce che già girava, ma Silvio fa un altro partito. Prima pagina del giornale, Francesco Kramer a pagina 3 racconta che ormai le società di marketing sono state incaricate di disegnare un nuovo logo, un nuovo nome. Popolo della Libertà non piace più, poi c'è anche una questione di contenzioso, perché pare che potrebbe anche non poterlo più utilizzare dopo la separazione confini, cioè c'è il rischio di cause legali per chi è il titolare del marchio, del simbolo, e dunque pare che Berlusconi voglia, mistero sul nome, ma voglia cambiare il nome del partito. Berlusconi prepara il predellino bis. Mentre sempre d'occhio bisogna tenere, lo farò tutti i giorni, Fabrizio D'Esposito, le cronache dal bunker sul Riformista, cioè va a vedere quelle che sono le tensioni all'interno della maggioranza. Ieri c'è stata una lite vera e propria alla Camera tra Alessandra Mussolini e Mara Carfagna, con Alessandra Mussolini che accusa Mara Carfagna, non è la prima, di in qualche modo di stare un po' troppo vicino a Italo Bocchino e dunque di fare chissà il doppio gioco, cioè essere un ministro, una del Popolo della Libertà, ma la sua amicizia di lunga data con Italo Bocchino è risaputa, e dunque dice trama un po' anche coi Finiani. Questa è l'accusa che per esempio gli ha fatto il presidente della provincia di Salerno Cirielli, e questa è anche l'accusa di ieri la Mussolini. Vergogna, gli urlava in faccia la Carfagna, vergogna. Addirittura quando la Carfagna si è messa a parlare con Italo Bocchino, la Mussolini che ha fatto, ha tirato fuori il cellulare e l'ha fotografata col cellulare, come alle medie, l'ha fotografata urlandole vergogna, vedi, parli con Bocchino. E al che la Mara Carfagna si è girata e gli ha urlato brava, brava, applaudendo ironicamente. Anche sul Corriere, Mussolini, Carfagna, lite in aula, d'accordo, sei d'accordo con Bocchino, e lei replica falso. E questo è il cronache dal bunker che oggi vi regalo, di Fabrizio D'Esposito dal Riformista. La vicenda Saviano è tutt'altro che finita, perché ha fatto scalpore effettivamente. Io ieri l'ho letto, la raccolta di firme che il giornale ha iniziato, e oggi fanno sapere già migliaia di firme contro Saviano. Eccolo qua, federalismo mafioso contro Saviano, già migliaia di firme. Tanto che l'Unità è partita con una contro raccolta di firme in favore di Saviano. E Concita De Gregorio oggi ne parla nel suo editoriale. In pagina 2, il titolo di prima pagina è con la foto di Saviano mai solo, e Concita De Gregorio dice: eccolo qui il metodo boffo è di nuovo all'opera. Chi non avesse ancora imparato a conoscerlo farebbe bene a non uscire di casa in questi giorni di nebbia. E dunque anche Ezio Mauro, prima pagina di Repubblica, fa un editoriale in prima pagina dal titolo Il caso Saviano, cioè l'attacco del giornale, le firme raccolte, insomma ci si interroga molto anche il Secolo d'Italia, che è il giornale dei Finiani, ora è Saviano il nemico del giornale. Tra l'altro Saviano fa un'intervista all'Espresso, che va citata questa volta, nel quale rincara la dose. In un colloquio con Gianluca Di Feo, oggi all'Espresso Saviano dice questo: l'Andrangheta al nord, certo, cerca di interloquire con la Lega, ma le inchieste mostrano come in tutte le regioni si sta manifestando un fenomeno molto più inquietante. Le mafie scommettono sul federalismo. Ciò che ho detto a Vieni via con me è documentato. L'incontro tra il consigliere regionale leghista e gli uomini delle cosche è negli atti dei PM Boccassini e Pignatone. E ricordo al ministro che l'unico direttore di una ASL arrestato per 'Ndrangheta è quello di Pavia, dove comune, provincia e regione sono amministrati anche dal suo partito. Stiamo parlando di una ASL che gestisce strutture d'eccellenza e fa girare 700 milioni di euro l'anno. E poi l'attacco al federalismo. Alle mafie piace una certa idea di federalismo, quella che potrebbe consegnargli gran parte del sud. Insomma, Saviano che rincara la dose nella polemica, coadiuvato da Vendola. Che ha detto Vendola, che è negli Stati Uniti? Non dimentichiamoci che oggi la regione più mafiosa d'Italia è la Lombardia, non la Sicilia. Lombardia mafiosa, bufera su Vendola, così titola Repubblica. Mentre è molto caustico Filippo Facci su Libero, Facci che ha sempre difeso Saviano, ma oggi fa un editoriale dal titolo così: eri un mito, la TV ti ha dato alla testa. Poi un giorno ci spiegherai, scrive Facci, perché in pochi giorni hai gettato alle ortiche un lavoro di anni, caro Saviano. In questo paese rimanere bipartisan è un'impresa colossale, il cretinismo bipolare reclama sempre nuove prede da spolpare, da scaraventare. E tu eri riuscito a sottrarti con sforzo evidente, avevi evitato di intrupparti in un certo gregge conformista e firmaiolo. E invece ora, dice Facci, la TV gli ha dato alla testa. Cosa stiamo scoprendo, Saviano? Che le mafie inseguono i soldi dove ci sono? Che corteggiano il potere ovunque sia? Il macro messaggio televisivo ora è che il Nord-Est sta diventando come il Casertano. Credi che dal teleschermo sia passato qualcosa di diverso, magari di più approfondito di così? Il grosso del pubblico di prima serata non legge Gomorra, spesso non legge proprio, ma guarda il telegiornale. Il capo di Gomorra in compenso l'ha visto in manette. Questo mentre tu, su Repubblica, menzionavi e ringraziavi praticamente l'intera squadra mobile di Napoli, fuorché Vittorio Pisani, l'uomo che teneva sotto braccio Antonio Iovine, lo stesso poliziotto che ritenne infondate le minacce della camorra contro di te. E questo è il messaggio che è passato, sai? Sembra che non l'hai nemmeno nominato apposta. Che ti piglia, Saviano? Anche il tuo commento dopo l'arresto del boss sorridente è suonato inutilmente drammatico. Hai detto che voleva dire in carcere ci vado a comandare. Ma certo, si è fatto beccare apposta. Vivere a Casal di Principe o beccare l'ergastolo è la stessa cosa. Anzi, non vedeva l'ora. Stai spaccando gli italiani anziché sensibilizzarli, Saviano. Li stai confondendo anziché informarli. Soprattutto li stai confermando nelle loro rinfrancanti divisioni tra buono e cattivo, destra e sinistra, amico e nemico, fatti e parole. Ma ormai sei imprigionato nella parte. Qual è la prossima mossa, Saviano? Potrai finalmente lasciare la Mondadori? Ora? Così Filippo Facci oggi su Libero, il traffico. In primo piano. E chi attacca la trasmissione di Fazio Saviano da giorni, ma per un altro motivo, è Avvenire, che oggi ci ritorna. Perché? Per l'ospitata di Mina Welby, di Beppino Englaro, per le parole anche pro eutanasia. Fateli parlare, oggi è il titolo dell'editoriale di Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire. Appello ai media, fateli parlare, non c'è altro che chiediamo e che adesso ci aspettiamo. Fateli parlare, fate parlare una buona volta Mario Melazzini, Fulvio De Nigris, Maria Pia Bonanate, suo marito, Angelo Carboni, Rosi Facciani, Simone Schonsberg, Mamma Gloria, Moira Quaresmini, la sua famiglia. Lo diciamo a tutti, ogni network, ogni emittente di questo paese, ai colleghi della carta stampata, ma soprattutto coloro che stanno in Rai. Fabio Flavio Fazio sta dando spazio e voce solo ai profeti dell'eutanasia? Rendetevene conto, fate dare conto alle voci cancellate e negate, delle vite e delle storie umiliate. Caro presidente della Rai Garimberti, direttore generale Masi, direttore di Rete 3 Ruffini. Infatti c'è a pagina 3, ecco, perché la TV non dà voce a loro, i disabili gravi con le loro famiglie che protestano, chiedono rispetto, ascolto e visibilità. Tra l'altro oggi anche Antonio Socci, giornalista, scrittore, che ha anche un dramma personale, vale a dire la figlia Caterina, che è stata colpita da un ictus e da mesi combatte con questa situazione. Saviano, vieni a vedere mia figlia. Ecco, questo è il titolo dell'accorato appello in prima pagina di Antonio Socci. Forse poi eviterai di straparlare sull'eutanasia. E insomma, la polemica di questa trasmissione certo lascerà il segno, e mancano ancora due puntate, sta lasciando molto molto il segno, sta animando anche il dibattito nella società civile. Io voglio prendere in mano solo le 24 ore con questa anticipazione che vi ho dato: il fisco zavorra sulle imprese. Io sono rimasto davvero perplesso, perché l'Italia è accertata al 167esimo posto nel mondo su 183 paesi, come sconfortante dato che emerge da uno studio della Banca Mondiale, che calcola il peso del prelievo fiscale sulle imprese a causa soprattutto delle tasse sul lavoro e dei contributi sociali pagati dai datori di lavoro. C'è chi mi dice, dite quanto siamo in evasione fiscale. Siamo messi malissimo, chi mi ha scritto gli sms, e lo dico sempre, quando ci sarà una classifica in merito, come qualche giorno fa, non era una classifica ma dei dati, li diremo senza problemi. 2/3 dei profitti vanno a fisco e contributi, a Rossella Boccerelli a pagina 2 che ne parla, insomma, in questa classifica. La Germania è 128esima al mondo, la Francia 163esima, noi appunto 168esimo. Pochi paesi sono peggio di noi, la Spagna è 150esima, la Gran Bretagna è messa bene, è 76esima al mondo, messa bene, cioè insomma rispetto al resto d'Europa. Il paese che vanta il minor carico fiscale per le imprese è Timor Est, nel sud-est asiatico, lo 0,2%, e che è? Cioè praticamente nessuna tassa. L'Italia invece è il 64% del totale, soprattutto per tasse sul lavoro, contributi sociali pagati dai datori di lavoro. Il paese messo peggio al mondo è la Repubblica Democratica del Congo, dove il prelievo fiscale è del 339,7%. Insomma, non andate ad aprire un'impresa in Repubblica Democratica del Congo. Io voglio segnalare che Repubblica intervista il presidente americano Barack Obama. Non è che lo segnalo in conclusione, perché, ma sono interviste queste nelle quali va dato grande merito, perché Federico Rampini, insomma, avere il privilegio di intervistare Barack Obama è tutto un merito. Certo, però in queste interviste non è che vengono fuori dichiarazioni epocali. Obama ha detto: un'America forte per la ripresa globale, collaboreremo sempre con l'Europa, nostro partner storico, apriremo verso l'Asia insieme, siamo a favore della Turchia e del suo ingresso all'Unione Europea. Per quel che riguarda il Medio Oriente, Hamas al tavolo della pace, le condizioni sono chiare, deve porre fine alle violenze, riconoscere gli accordi e il diritto di Israele a esistere. Insomma, un po' frasi in un'intervista di circostanza, ma certo il prestigio di avere un'intervista a Barack Obama, l'uomo, uno degli uomini più potenti al mondo, a pagina 2 e 3 di Repubblica. Una notizia molto positiva, secondo me: la Gelmini premia i prof più bravi. Questa c'è ovunque sui giornali. Verrà data in un esperimento pilota, prima negli asili nido, poi nelle scuole elementari e poi nelle scuole medie. Chissà, ne parleremo forse anche lunedì. La possibilità di premiare i professori più bravi, le scuole, o meglio, che hanno i professori più bravi. Il professore più bravo guadagna di più, questo anche Flavia Amabile sulla Stampa. I sindacati si dividono. È un tema molto interessante: una mensilità in più e fondi per 70.000 euro alle scuole dei professori più bravi e meritevoli. Beh, interessante come tema. Che dire, ci fermiamo. Vi segnalo quello che c'è sul Fatto Quotidiano, ma un po' ovunque. Sapete Julian Assange, quello di Wikileaks, che ha svelato migliaia di file segreti, eccetera. Ora è inseguito con due mandati di stupro e il Fatto Quotidiano si chiede: ha stuprato due donne o cercano di incastrarlo? Il mandato d'arresto per Assange, inventore di Wikileaks, ne parla Federico Mello, il tema è questo. Forse ha pestato qualche piede scomodo questo Julian Assange, ora inseguito con due mandati d'arresto per violenza sessuale. Ci fermiamo, votate il sondaggio, parliamo di Gianna Nannini, mamme oltre i 50 anni, atto di amore o di egoismo? Ne parliamo alle 8.30, ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua, il nostro ospite di oggi, come annunciato, il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro della Lega. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua, sa, noi l'abbiamo chiamata perché le diamo un'opportunità, quella di chiedere scusa. E lei se la sente? Di chiedere scusa a chi? Chiedere scusa per la frase che ha detto. Allora, vogliamo ricordare, tre giorni fa sono stati fermati tre serbi, che poi sono stati anche rilasciati, perché avevano cosiddetti sciacalli, avevano rubato della refurtiva nelle case alluvionate del Padovano. E lei ha detto in una intervista televisiva, andrebbero fucilati sul posto. Così ha detto. Ma guardi, è successo ieri mattina, leggendo i giornali in una trasmissione televisiva, e in prima pagina c'era un titolone, tre sciacalli rubano nelle case degli alluvionati. Allora, io ho vissuto due o tre notti in mezzo a queste persone per tentare di impedire all'acqua che rovinino le loro proprietà, i loro affetti, i loro strumenti di lavoro. Mi è venuto in mente, leggendo quella notizia ieri mattina, un libro di Oriana Fallaci, quando sicuramente si ricorderà anche lei la fotografia del Vietcong, del bambino Vietcong, sì, inginocchiato con l'americano, un vietnamita stesso, gli sparava sulla testa. Certo, come no. E mi è venuto in mente tutti questi imprenditori, tutte queste famiglie che sono in ginocchio dall'alluvione, sono state duramente colpite dall'alluvione e ho sentito un gran dolore sulla bocca dello stomaco. E ha detto questa cosa? E questo ha detto, queste sono le mazzate finali che vengono, che uccidono le persone, uccidono non in termini fisici, li uccidono nello spirito, li uccidono nella speranza. E questo senza, ma lei questa frase l'ha detta, cioè ha detto, se lasciato sfuggire, andrebbero giustiziati sul posto, cioè la conferma la frase, sì, perché l'ha detta in un programma televisivo. Ovviamente quella è una provocazione sicuramente, perché so anch'io benissimo quali sono le nostre leggi nazionali, ma di fronte a della gente che ha perso tutto, che non sa se si può riprendere, sia sulla vita normale e familiare, sia sulle aziende, quelle migliaia di aziende di agricoltori che non sanno quando potranno iniziare di nuovo, sì, a piantare, a fare culture, la provocazione è stata quasi istantanea. Una provocazione, dice. Cioè, insomma, non si sente di dire ho sbagliato, chiedo scusa. Guardi, prima guardavo dalle 6 alle 8 una TV nazionale, ha fatto un sondaggio, l'ultimo dato era l'89% era a favore di queste dichiarazioni. Questo non è che io voglio Ma chi se ne frega, Presidente? Ma ho capito che se ne frega lei, forse non ne può fregare di meno. No, ma chi se ne frega se la gente dice siamo a favore di giustiziare sul posto? Non è che tutto quello che la gente vuole è per forza giusto, insomma. Lei da uomo politico potrebbe dire sì, magari l'istinto è quello, ma non si deve fare, ecco. Allora, la provocazione credo che abbia fatto parlare di una situazione, di un'alluvione che per tanti giorni se ne è dimenticata l'intera nazione. La provocazione è una provocazione nella quale credo che noi dobbiamo garantire sicurezza a queste persone e a queste famiglie, che dopo aver perso tutto possono sentirsi perlomeno sicuri attraverso dei servizi di controllo delle forze dell'ordine, anche nuove leggi, anche forse più severe verso queste azioni. Siamo d'accordo, guardi, se lei dice facciamo leggi severe, per me è uno scandalo che siano stati rilasciati, per esempio, che vengano puniti con leggi severe e duramente, ecco, questo sì, è il giustiziarli sul posto. Ma lei le chiedo, al di là del fatto che sono passate qualche ora, lei è per la pena di morte in alcuni casi? Ma guardi, su questo è un tema molto importante, qui mi chiamano il leghista buono, no? Sono sempre stata una persona molto moderata e ho sempre cercato, la mia indole, la mia personalità è quella della moderazione e di trovare sempre una strada in maniera così concordata o riflessa, sì, assieme alla gente. sulla pena di morte, in certi azioni, l'istinto ti darebbe un parere positivo, solamente su certe efferate situazioni. Quella di ieri, io ho vissuto anche il barbaro omicidio di Gorgo al Monticano di qualche anno fa. Sì, ce lo ricordiamo, in villa. Per pochi euro. Poi la riflessione ti fa pensare a qualcos'altro, ma quando pensi a qualcos'altro vorresti poi che ci fosse la certezza delle pene. E questo perché quando certo. Vedo che proprio l'altro giorno al nostro Parlamento ha deliberato una legge che coloro che hanno reati fino a un anno e mezzo, siccome le carceri sono troppo piene, li mandano in mezzo a una strada di nuovo. Il cittadino onesto, il cittadino sincero, il cittadino che piuttosto patisce la fame piuttosto che rubare una mela all'ortofrutta. Già si sente chiaramente. Io però... non voglio fare il paladino, però credo che queste riflessioni quando le penso io le dico, perché quello che penso io dico. Presidente, io nel salutarla e ringraziarla, insomma, mi dica sì o no, si sente di doversi scusare per quello che ha detto oppure no perché le è uscita così? No, io non mi devo scusare con nessuno per quanto ho affermato, è stata una provocazione che ha colto il segno che se ne parla, se ne discute e il sostegno che ho dei miei concittadini credo che sia tale che questo non significa che voglio fare il paladino, non voglio fare ovviamente il Robin Hood o quant'altro, però la mia provocazione è data nel segno e nel rispetto di quelle povere persone che sono inginocchiate e qualcuno vorrebbe dargli il colpo di grazia. La ringrazio, Presidente, per essere stato con noi. Leonardo Muraro, Presidente della provincia di Treviso della Lega, grazie, buona giornata ovviamente e pubblicità e meteo. Poi parliamo, sì, di Gianna Nannini, o meglio, del fatto di essere mamme sopra i 50 anni. Atto di amore o atto di egoismo? Votate su radio24.it oppure 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino. E allora alle 8:34 minuti parliamo di essere mamme a 50 anni o anche più, come lei, come Gianna Nannini. Atto di amore o atto di egoismo? Bianco o nero? Sei nel Che bella, vorrei far ascoltare questa e non parlare più. All'improvviso tutti si sono dimenticati della libertà, del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando vuole e con chi vuole. Punto e a capo vedrai, quel che resta indietro non è. Ero a Londra quando è partito il dibattito quest'estate. Ho letto solo alcuni titoli, poi mi sono sentita in dovere di prendere le distanze per proteggerti, ascoltare le emozioni che venivano da te. Roba da perdere i sensi. Ho sentito tanta gente che ha vissuto questa notizia assieme a me con esultanza e brivido, li ho sentiti vicini. Così come non ringrazio affatto chi mi ha dato contro ancora una volta, chi invece che cercare di capire ha preferito giudicare, puntare il dito e criticare. Sapete, Gianna Nannini, mamma quasi a 54 anni. Atto di amore o atto di egoismo? Ne vogliamo parlare con due donne. Intanto l'onorevole Melania Rizzoli, che saluto, del Popolo della Libertà, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E grazie a lei. Lucetta Scaraffia, che insegna la Sapienza di Roma, ma è anche editorialista del Riformista, dell'Osservatorio, ma è una fan di Gianna Nannini. Professoressa, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci qua. In primis fan di Gianna Nannini. E poi tutto il resto. Oggi sì, in primis fan di Gianna Nannini. Sì, sì. Però voglio partire, poi voglio salutare salutare il direttore di Vanity Fair, Luca Dini. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, intanto abbiamo visto una splendida neomamma, Gianna Nannini, 54 anni. Le chiedo intanto, gesto di amore o atto di egoismo? Voi ve lo siete chiesti in redazione? Quegli stralci della lettera che ho letto è quella che Gianna Nannini ha pubblicato sull'ultimo numero di Vanity Fair dedicata alla figlia, Penelope. Sì, devo dire, noi di solito non è quella la prima domanda che ci facciamo. La prima domanda che ci facciamo è se una storia merita di essere raccontata. Questa secondo noi lo meritava sicuramente. Poi personalmente credo che sia difficile misurare quanto di amore, quanto di egoismo c'è nella nascita di qualsiasi bambino, e questo vale per tutti, non certo per Gianna Nannini o perché è singolo, perché ha 54 anni. I lettori che dicono, però, si sono già fatti vivi con mail, con... Sì, certo. Sì, che certo, che certo. Dicono? Stanno con Gianna oppure no? In questa diciamo scelta. Che ammirano molto Gianna Nannini, molti sono fan, molti non sono d'accordo con la sua scelta, però in un certo senso la considerano talmente diversa lei stessa dallo stereotipo, diciamo, della mamma nonna, che faticano anche a farsi un'opinione tanto ostile. Però certo ci sono opinioni molto molto diverse, divise, ci sono grandi applausi e anche grandissime critiche. C'è da dire che per ora il nostro sondaggio, il 77% impietoso, dice un atto di egoismo, ma insomma vogliamo interrogarci su questo. Onorevole Melania Rizzoli, lei si è anche espressa pubblicamente in una lettera al Corriere della Sera dicendo è un atto d'amore, punto. Però c'è un qualche però che dobbiamo considerare? No, io ritengo che sia effettivamente un atto d'amore, perché oggi una donna che ha 50 anni decide di fare un figlio è sicuramente un atto d'amore, perché ci vuole comunque un impegno non indifferente. Voglio ricordare da medico che oggi noi abbiamo la quarta età, cioè a 80 anni comincia quella che viene definita la quarta età, perché si arriva molto facilmente, senza malattie croniche, ad essere centenari, e una donna di 50 anni oggi è considerata come una gravidanza a 50 anni è considerata una gravidanza tardiva, ma come 50 anni fa era considerata una gravidanza tardiva a 35 anni. Cioè fino a 50 anni fa si procreava in età molto molto giovanile, cosa che adesso succede sempre più raramente. Quindi impegnarsi in una gravidanza, e poi la Nannini lo racconta, lei ci ha provato per ben 3 volte, quindi era molto determinata in questa scelta, in cui ci sarà senz'altro una dose di egoismo, ma sicuramente quello che prevale è un atto d'amore. Un atto d'amore. Tra l'altro, sono a favore della vita, comunque a favore della vita. Ma questo c'è... Meglio un figlio a 50 anni che nessun figlio, l'ho scritto anche sul Corriere in questa, della Sera, in questa lettera. Tra l'altro proprio il tema della natura che certo conta per essere madre. Anche Lucetta Scaraffia si è prodotta sul Riformista proprio come fan, dichiarandosi subito una fan di Gianna Nannini, dicendo le perdono anche questa, no? Lucetta Scaraffia perdona Gianna Nannini questo, però lei qualche però l'ha messo, no? Sul fatto del... Io penso appunto che Gianna Nannini è fuori questione, cioè gli artisti, un artista, un grande artista come Gianna Nannini può fare delle scelte fuori della norma e gliele si può perdonare benissimo, anche perché l'hanno sempre fatta gli artisti, cioè non tutte le mamme sono Gianna Nannini, quindi lei può fare delle cose così. Però io penso invece che non sia un bene che le donne 54 anni facciano un bambino. Poi volevo dire alla signora Rizzoli che le donne una volta, è vero che forse 35 anni era un po' tardi, ma c'erano donne che facevano figli fino a 40-42 anni, cioè i famosi, quelli che si chiamavano figli della menopausa, cioè questo faceva sempre parte della natura fisiologica della donna, cioè fino alla menopausa la donna poteva concepire e procreare. Questo fatto di spostare così tanto l'età provoca dei problemi molto forti alla salute della donna, perché queste cose si possono fare solo bombardando di ormoni, facendo così, e poi creando dei problemi ai bambini. Non è vero che ai bambini avere una madre nonna gli faccia bene, gli faccia piacere, E secondo me, tra l'altro, dire che si possono avere dei figli a età avanzate significa rinunciare ad avere dei figli da giovani, perché quello che noi oggi dobbiamo insegnare ai ragazzi e alle ragazze è che è difficilissimo avere dei figli intorno dai 40 anni in poi, sì. È quasi impossibile. Quindi se uno, quindi meglio non rimandare prima, però secondo lei, visto che c'è qua il direttore anche di Vanity Fair, questa copertina per esempio, mi pare di capire, Lucetta Scarafia, che per lei è anche un messaggio. Va bene la rocker sempre un po' controcorrente che ha sfidato un po' e che dice nella lettera: io sono sempre andata un po' contro e quindi accetto anche le critiche, qualche errore nella mia vita l'ho anche fatto, ma questo no. Dice è un messaggio che non le piace, cioè un messaggio che potrebbe passare, l'idea che mamma a 50 anni è bello? Beh sì, secondo me non è giusto, anche perché questo avvalora una forma, uno sbaglio della nostra società, che è quella di non avere nulla che favorisca il fatto di fare i figli da giovani. Cioè nella nostra società non esiste nulla che aiuta i giovani a fare i bambini nell'età in cui normalmente si devono fare i bambini, cioè fra i 25 e i 35 anni. È una società che respinge per mille motivi la costruzione di nuove famiglie. Quindi se poi ancora si fa vedere che a 50 anni si possono avere figli, non è vero che a 50 anni si possono avere figli, sono casi rarissimi, oltretutto richiedono, come ha fatto Nannini, dispendio di, oltre che di sofferenza personale, di energia personale, anche di soldi, è una cosa costosissima. Certo, questo sì. E allora sentiamo Luca Dini, direttore, e qui anche questo non è la tematica che voi vi ponete, forse la prima tematica che vi ponete, se mettere questa copertina debba essere insomma un qualcosa che influenza la società, però vi siete posti questa questione anche del come Gianna Nannini è diventata madre. Una delle obiezioni che io ho sentito spesso fare anche in redazione e da tanti, a dire: ma questa bambina avrà con sé sua madre per quanti anni? 30 anni? Però io mi sento di dire solo questo: conosco molti non 54enni, ma uomini 64enni che fanno figli senza che nessuno si scandalizzi. Io non credo che per un ventenne sia meno doloroso perdere un padre che per un trentenne perdere una madre. Credo, voglio dire, che nel nostro giudizio ci sia anche un po' il condizionamento di un punto di vista leggermente maschilista sulla procreazione. È vero che la natura degli uomini e delle donne è diversa, però se è verissimo quello che dice la Scarafia sul fatto che è giusto ed è meglio fare figli da giovane, come dovrebbe essere, trovo che questo principio valga nella nostra società, soprattutto per le donne. Ma infatti no, è interessante questo che lo ponga Luca Dini, che è l'uomo qui degli ospiti, ma lo dico anch'io, le obiezioni anche onorevole Rizzoli, si dice: e come, quanti padri ci sono a 70, anche di più, 75 anni, no? E per gli uomini va bene, perché per le donne non dovrebbe andare bene, onorevole? Appunto, sono d'accordissimo. Però c'è la natura, effettivamente, lei che è medico, la natura certo, ci sono moltissimi fanno figli anche a 70 anni. E nessuno si scandalizza, per l'uomo tutto è più tollerato, tutto è più giustificato, eccetera. Certo che è tardi fare un figlio a 54 anni, è tardissimo, però voglio dire, se c'è un impedimento, oggi abbiamo delle tecniche, la ricerca scientifica, la ricerca medica è talmente avanzata che può aiutare laddove ci sono degli impedimenti quasi patologici. Questo sì, però quello che non piace, ma da qui voglio ripartire dopo il traffico anche con qualche ascoltatore, quello che non piace a Lucetta Scarafia è il messaggio, cioè l'idea che va bene Gianna Nannini controcorrente, ma l'idea che si possa lanciare questo messaggio che mamme a 50 anni è un qualcosa che si può fare ed è una cosa positiva. Ma sentiamo le informazioni sul traffico e ripartiamo da qui. C'è ancora, tra un attimo, allora sentiamo Maria da Trieste, visto che recuperiamo il traffico tra un attimo. Maria, dica. Buongiorno, vi sto sentendo, io volevo dare un po' il mio parere. Io trovo che queste forzature fatte oggi perché c'è la scienza avanzata e quant'altro, a me sembrano veramente ridicole, sa perché? Io penso che un bambino abbia bisogno di una madre efficiente, giovane, che gli dia tutta quella carica. Quando saltano le due generazioni, avere anche un padre di 70 anni come un neonato, io trovo che sia una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi guardi, per lei è un atto di egoismo? Diciamo è un atto di egoismo, perché la natura è stata così saggia e gli uomini vogliono Pronto? Sì, sì, sì, gli uomini vogliono... Ah, mi sente? Sì. Gli uomini vogliono naturalmente interpretare per i propri interessi quello che la natura non dà. Cioè, voglio dire, l'autunno, la primavera, l'estate, l'autunno, l'inverno sono l'espressione della natura anche nell'uomo. Perfetto, voglio quindi è una forzatura della natura. Perfetto, Maria, la ringrazio. Il traffico, rientriamo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Prendendo spunto dalla vicenda di Gianna Nannini, ci chiediamo: essere mamme sopra i 50 anni è un atto d'amore o d'egoismo? Il 77% di voi per ora votando su radio24.it dice è un atto di egoismo. E allora, professoressa Scaraffia, le chiedo, questo vale anche per i papanonni, il suo discorso? O... Ma io penso di sì, che valga anche per i papanonni. Penso comunque che c'è una differenza molto grande fra l'essere madre e essere padre. Intanto la differenza fisica, cioè i padri non procreano i bambini, non li devono allattare e in genere non fanno neanche quella faticosissima. C'è una questione proprio di natura, lei lo punta su questo aspetto. Non... insomma è diverso. Sì, no, ma certo, sì, sì, no, ma questo è il punto... un dogma, è una realtà... Questo sì, ma secondo lei questo è il punto di rimente della questione. Talvolta della realtà bisogna tenere conto. Poi penso che comunque è un po' irresponsabile fare i figli troppo da vecchi per mille motivi che non sono solo quelli di rimanere a lungo con i figli, quello è nelle mani di Dio per chiunque, ma è anche quello di avere una comprensione con i figli, un rapporto diverso di generazioni con i figli, vicinanza di generazione con i figli. Sì, sentiamo che ne pensa Gilberto da Verona, buongiorno. Sì, da Verona, buongiorno. Dica Gilberto. Buongiorno, senta, come dicevo alla vostra collaboratrice, l'argomento è estremamente interessante. Direi tre pillole. Uno, il fatto di che una signora di qualsiasi strato sociale decida di diventare mamma oltre i 50 anni è un fatto privato che riguarda quella famiglia e nessun giudizio deve essere fatto con estensioni di tipo sociale, sociologico, eccetera. E qui ci interroghiamo perché il fatto privato è diventato pubblico nel momento in cui il personaggio è pubblico e si espone così. Questo è legittimo per la notorietà, però non permette a nessuno di esprimere giudizi. Poi la seconda cosa è quella che ogni giudizio eventualmente espresso riporta un stato personale di chi emette emette il giudizio. Cui e quindi... l'altra cosa invece che secondo, e spero di non essere frainteso, il vero egoismo e il vero danno è nei confronti di quei bambini che vengono generati da famiglie che sono indotte da una convenzione sociale che entro i 35 anni bisogna essere genitori. Quando non si è veramente convinti del passo fondamentale che una famiglia diventa genitore. Certo, no? Se uno deve fare un figlio se ne è convinto. E invece c'è ancora nella nostra società una convenzione per quali le giovani mamme devono diventare tali perché bisogna farlo al bambino. Va bene, grazie Gilberto. Massimo da Livorno, se è veloce, rapido, dica Massimo. Velocissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, ma il problema secondo me fondamentale è uno solo, credo. La nascita di un bambino è la cosa più bella che possa esistere e che la natura ci ha donato. Però il problema non è tanto quello, il problema è come viene gestito il bambino, perché spesso e volentieri si vedono i bambini anche di personalità note che chiaramente per la loro professionalità devono comunque sempre e comunque dare in affidamento i bambini alle tante a qualsiasi altra persona. Quindi il bello il bambino è crescere insieme alla famiglia, la famiglia cresce insieme al bambino. Quando queste cose non avvengono, indipendentemente dall'età, è chiaro che si perdono poi di vista tutte quelle che va sono bene. Grazie Massimo. Io vorrei chiedere a Luca Dini due cose. La prima è, ovviamente, vi siete interrogati anche su che tipo di gravidanza sia stata. Chiaramente Gianna Nannini è una donna sola, non sappiamo nulla, credo, del padre, no? No, devo dire non ne sappiamo nulla, ma né in un senso né nell'altro, francamente. Io personalmente non ne so nulla, magari in futuro, se lei vorrà, ne parlerà. E poi c'è quest'altra seconda provocazione, no? Quella che si è fatta fotografare con questa maglietta nella quale il messaggio è molto esplicito: God is a woman, cioè Dio è donna. Perché ha fatto perché è controcorrente? Che voleva dire con questo gesto? Ma è una cosa a cui lei teneva molto. Io la ritengo una delle classiche Gianna Ninnate. Non mi sembra una trovo abbastanza strano che questa cosa abbia fatto scandalo, perché dire Dio è donna è esattamente tanto scandaloso quanto dire Dio è uomo. È una boutade, per lei significa semplicemente vuole sottolineare la sua forza, la forza di donna, di una donna che fa una scelta libera, ecco, è semplicemente questo, non credo sia affatto una provocazione alla religione. Gianna Nannini è una persona che si esprime così, secondo me così vanno interpretati i suoi messaggi. Onorevole Rizzoli, lei da medico le chiedo, consiglierebbe una cinquantenne che le si rivolge a dire sì facciamo tutto, si può diventare mamma tranquillamente, cioè è solo una questione tecnica di procreazione oppure si pone dei problemi di altro tipo? Così semplice, poi dipende da donna e donna. Le differenze sono tantissime, non tutti lo possono fare. E poi voglio aggiungere un'altra cosa, che comunque la natura è madre, cioè nel senso che su 100 donne di 50 anni o all'incirca di quell'età che tentano di avere un figlio, una minima parte ne riesce, cioè una minima parte hanno quelle condizioni di natura, di fisico e di fisiologiche che permette di intraprendere una gravidanza, cioè se il fisico non è naturalmente predisposto in quel momento, in quella situazione, ad accettare una gravidanza, la gravidanza non inizia mai. E allora io qui mi devo fermare e intanto vi ringrazio, onorevole Melania Rizzoli, la professoressa Lucetta Scaraffia, il direttore di Vanity Fair Luca Dini, sul quale Vanity Fair c'è la lettera che ha fatto anche tanto dibattere Gianna Nannini, ti chiamerò Penelope nell'ultimo numero. Grazie per essere stati con noi. Ovviamente, detto che il 77% sempre continua a dire no, è un atto di egoismo per noi. E allora i ringraziamenti, come di consueto, a fine settimana, tra l'altro, ad Antonella Migliaccio in redazione e al nostro alpino Peter Bescapè, come sempre in regia, anche se la penna nera io non l'ho ancora mai vista, sorride sotto i baffi che non ha. Ci fermiamo e l'appuntamento è Oscar Giannino tra poco, e noi ci troviamo lunedì alle 7:20.